Dopo un po' dichiarò di aver raccolto tutti i fiori che desiderava e che il caldo era così eccessivo che sarebbe rientrata in casa. Poi Osborne se ne andò. Ma Molly si era prefissata di estrarre delle radici che erano già fiorite e di disporre al loro posto delle piante perennifolie. Per quanto stanca e accaldata, concluse il suo lavoro e poi salì a riposare e a cambiarsi d'abito. Come al solito, andò a cercare Cinzia. Non ebbe risposta al suo dolce bussare alla porta della camera opposta alla sua e, pensando che Cinzia si fosse addormentata e giacesse scoperta nella corrente d'aria proveniente dalla finestra aperta, entrò pian piano. Cinzia era stesa sul letto, come se vi si fosse buttata sopra senza pensare all'agio e alla comodità della posizione. Era immobile. Molly prese uno scialle e stava per posarlo sopra di lei quando l'altra aprì gli occhi e disse: «Sei tu, cara. Non andare via. Mi piace sapere che sei qui». E richiuse gli occhi e rimase quieta, quieta per pochi minuti ancora. Poi si mise seduta, si spostò i capelli dalla fronte e dagli occhi che bruciavano e scrutò intensamente Molly. «Sai a cosa sto pensando, cara?» chiese. «Penso di essere stata qui abbastanza. E che sia meglio che mi trovi un posto da istitutrice». «Cinzia, cosa vuoi dire?» fece Molly stupefatta. «Hai dormito? Hai sognato? Sei sovraffaticata?» continuò sedendosi sul letto, prendendo la mano inerte di Cinzia e accarezzandola con dolcezza. Un modo di carezzare che aveva preso da sua madre, se fosse per istinto ereditario o se per la sopravvivenza del ricordo dei teneri atteggiamenti della defunta. Mister Gibson stesso se lo domandava quando la vedeva. «Oh, come sei buona, Molly!» mi chiedo. «Se fossi stata cresciuta come te, sarei stata altrettanto buona. Ma sono stata sballottata su e giù così tanto. E allora non andare a farti sballottare più?» suggerì Molly affettuosa. «Oh, cara, è meglio così. Ma vedi, nessuno mi ha mai voluto bene come te e penso, tuo padre mi vuole bene, vero, Molly? Ed è brutto farsi cacciare via. Cinzia, sono certa che tu non stia bene o che non sia del tutto sveglia». Cinzia sedeva circondandosi le ginocchia con le braccia e guardando il vuoto. «Beh», disse finalmente con un lungo sospiro. Poi, però, sorridendo nel notare il viso preoccupato di moglie, aggiunse: «Immagino non ci sia modo di sfuggire al proprio destino e in qualunque altro luogo sarei ben più sola e priva di protezione. Cosa intendi per destino?» «Bella domanda, piccolina», rispose Cinzia, che sembrava ora aver recuperato i suoi soliti modi. «Però io non intendo subirlo. Penso, per quanto in fondo io sia una codarda matricolata, di essere in grado di opporre resistenza». «A chi?» chiese Molly, davvero ansiosa di indagare in quel mistero, se ce n'era davvero uno, fino in fondo, nella speranza di trovare un qualche rimedio per l'angoscia in cui Cinzia si trovava quando Molly era entrata in camera sua. Cinzia si smarrì di nuovo nei suoi pensieri, poi cogliendo nella mente l'eco delle ultime parole di Molly, ripeté: «A chi? Oh, opporre resistenza a chi? Al mio destino, sicuramente. Non fa di me una gran donna il fatto di avere un destino? Ma Molly, bambina, come sei pallida e seria», disse baciandola all'improvviso. «Non devi preoccuparti così tanto per me, non sono abbastanza buona perché tu ti interessi a me in questo modo. Io stessa mi sono data per vinta tanto tempo fa come una ragazzetta sfrontata e senza cuore». «Sciocchezze! Vorrei che non parlassi così, Cinzia. E io vorrei che tu non mi prendessi sempre la lettera, come traducevo una ragazza inglese a scuola. Oh, ma che caldo fa! Non tornerà mai più il fresco? Bambina mia, che mani sudice hai anche la faccia! E io ti ho baciata, direi che mi sono sporcata anch'io. Beh, non sembra uno dei discorsi della mamma. E così tu assomigli di più a un Adamo che scava che non a una Eva che fila». Questo ebbe l'effetto che Cinzia desiderava. La sempre linda Molly si rese conto di essere sporca, cosa che aveva dimenticato mentre si occupava di Cinzia, e si ritirò in fretta in camera sua. Quando fu uscita, Cinzia chiuse a chiave la porta senza far rumore e, prendendo il borsellino dallo scrittoio, iniziò a contare del denaro. Lo contò una volta, lo contò due volte, come se desiderasse scoprire un errore, per provare che la somma ammontava più di quanto sembrava. Ma la conclusione di tutto fu un sospiro. Che sciocca sono stata!» disse alla fine. «Ma anche se non inizio a lavorare come istitutrice, raccoglierò i soldi col tempo». Qualche settimana dopo il periodo che aveva preannunciato, quando aveva parlato del suo allontanamento dalle Gibson, Roger ritornò a Hamley Hall. Una mattina, mentre era da loro in visita, Osborne le informò che suo fratello era a casa da 2 o 3 giorni. E come mai allora non è ancora stato qui? Chiese Mrs. Gibson. Non è gentile da parte sua non venirci a trovare appena possibile. Riferitegli che ho detto così, vi prego. Osborne si era fatto qualche idea su come la donna avesse trattato Roger l'ultima volta che era stato lì. Roger non se n'era lamentato, non ne aveva fatto cenno fino a quella mattina, quando Osborne era sul punto di uscire e aveva insistito affinché il fratello lo accompagnasse. Quest'ultimo gli aveva riportato parte delle parole di Mrs. Gibson. Si era espresso quasi con divertimento, più che con fastidio, ma Osborne aveva potuto notare che egli era addolorato dalle restrizioni imposte sulle visite che costituivano il più grande piacere della sua vita. Nessuno dei due aveva alluso al sospetto che si era fatto strada nella loro mente, il sospetto ben fondato suscitato dal fatto che le visite di Osborne a qualunque ora, presto o tardi, non erano mai state accolte con sgarbo. Osborne ora si rimproverò di aver pensato male di Mrs. Gibson. Lei era evidentemente una donna debole, ma probabilmente disinteressata, ed era solo un lieve malore che l'aveva indotta a parlare a Roger come aveva fatto. Direi che è stato impertinente da parte mia capitare lì in orari così inopportuni, disse Roger. Niente affatto. Io mi presento a tutte le ore e non si è mai detto nulla. È stato solo perché quella mattina ero un po' nervosa. Garantisco che adesso le dispiace e sono certo che in futuro potrai andare da loro quando vorrai. Eppure Roger preferì non tornare là per altre 2 o 3 settimane e la conseguenza fu che la prima volta in cui passò da loro le signore erano fuori. Ebbe la stessa sfortuna in un'altra occasione, dopodiché ricevette da Mrs. Gibson un breve e grazioso biglietto a tre angoli. Mio caro signore, com'è che siete diventato formale tutto in un momento e lasciate biglietti da visita invece di aspettare il nostro ritorno? Vergogna! Se aveste visto i volti delusi che ho visto io quando ci è stato presentato quell'orrido cartoncino, non mi avreste portato rancore così a lungo, perché state punendo altre oltre alla mia cattiva persona. Se voleste venire domani, all'ora che preferite, e pranzare con noi, riconoscerò che ero di malumore e mi dichiarerò pentita. Per sempre vostra, Hyacinthe Gibson. A tanto non era possibile resistere, anche se non ci fosse stata una forte inclinazione a dare valore a quelle belle parole. Roger andò e Mrs. Gibson lo adulò e lo vezzeggiò nel suo modo più dolce e setoso. Cinzia gli apparve più bella che mai per quel lieve ostacolo che per un certo periodo era stato imposto sul loro rapporto. Con Osborne le poteva essere gaia e frizzante, con Roger era dolce e seria. Lei conosceva per istinto i suoi uomini. Vedeva che Osborne era interessato a lei solo per via della sua posizione in una famiglia con cui era in confidenza, che la sua amicizia non implicava il minimo tocco di sentimentalismo e che la sua ammirazione dipendeva solamente dalla calorosa valutazione di un artista a cospetto di un'insolita bellezza. Ma percepiva come fosse diverso il modo con cui Roger si rapportava a lei. Per lui era l'unica, la sola, senza pari. Se il suo amore fosse stato proibito, ci sarebbero voluti parecchi anni perché gli si potesse abbassare a una tiepida amicizia, e per lui la sua grazia personale era solo una delle innumerevoli attrattive che lo facevano tremare di passione. Cinzia non era in grado di ricambiare tali sentimenti, aveva ricevuto troppo poco amore nella sua vita e forse troppa ammirazione per esserne capace. Ma apprezzava l'onesto ardore e la leale devozione che erano nuovi per la sua esperienza. Questo riconoscimento e questo rispetto per la natura sincera e affezionata del giovane conferivano una seria tenerezza al suo comportamento nei confronti di Roger, e la cosa lo allettava con una grazia fresca e particolare. Molly sedeva in disparte, domandandosi come sarebbe andata a finire e, meglio, quando sarebbe finita, perché pensava che nessuna ragazza avrebbe potuto resistere a una tale reverente passione, e per quanto riguardava Roger non c'era alcun dubbio, ahimè. Non poteva esserci alcun dubbio. Uno spettatore più anziano sarebbe stato più lungimirante e avrebbe potuto porsi la questione delle sterline, degli scellini, dei pence. Da dove si sarebbe presa la rendita necessaria per un matrimonio? Roger aveva la sua borsa di studio, certo, ma quella somma sarebbe andata perduta se si fosse sposato. Non aveva professione e gli interessi di 2 o 3.000 sterline che aveva ereditato dalla madre appartenevano a suo padre. Questo più anziano spettatore si sarebbe un po' sorpreso all'empressement di Mrs. Gibson nei confronti di un secondogenito, sempre supponendo che il detto spettatore avesse letto le profondità del suo cuore mondano. Ella non aveva mai tentato di essere più gentile di così, neanche con Osborne, e per quanto i suoi tentativi risultassero un enorme fallimento sperimentati su Roger, ed egli non sapesse come rispondere alle raffinate adulazioni che sentiva insincere, il giovane capì che lei desiderava si considerasse da quel momento in poi libero di presentarsi a casa, ed era fin troppo felice di avvalersi di questo privilegio per esaminare in profondità quali potessero essere le ragioni di questo cambiamento nell'atteggiamento della donna. Così chiuse gli occhi e scelse di credere che lei volesse ora rimediare a quel piccolo sfogo di malumore manifestato nel corso della sua visita precedente. Il risultato dell'incontro di Osborne con i due dottori erano state alcune prescrizioni che sembravano avergli fatto bene e che probabilmente gli avrebbero giovato ancora di più se egli avesse potuto liberarsi dal pensiero della mogliettina paziente, tutta sola nei dintorni di Winchester. Si recava da lei ogni volta che poteva e grazie a Roger il denaro era molto più abbondante ora che in passato. Egli però era riluttante e forse sempre di più a parlare al padre del suo matrimonio. Un certo istinto fisico gli faceva temere incredibilmente di farsi prendere dall'agitazione. Se non avesse ricevuto quei soldi da Roger, forse sarebbe stato costretto a raccontare tutto allo squire e a chiedere i finanziamenti necessari a provvedere alla moglie e al bambino in arrivo. Ma avendo a disposizione una somma sufficiente e la celata, benché piena di rimorsi e convinzione, che finché Roger avesse avuto un penny, suo fratello era certo di ottenerne la metà, egli era più che mai restio a suscitare l'irritazione del padre con la rivelazione del suo segreto. Non ancora, non proprio adesso, ripeteva sia Roger che a se stesso. Tra poco, se avremo un maschio, lo chiamerò Roger. E poi le visioni di una romantica e poetica riconciliazione tra padre e figlio, grazie al bambino, frutto di un matrimonio proibito, divennero per lui le più vivide possibili e in ogni caso allontanavano un'idea spiacevole. Il giovane si giustificava con se stesso per il fatto di attingere così tanto dalla borsa di studio di Roger, con la riflessione che se egli si fosse sposato avrebbe perduto quella fonte di reddito. Eppure Osborne non ostacolava in alcun modo questo evento, anzi lo incoraggiava, favorendo in ogni modo possibile gli incontri del fratello con la destinataria del suo amore. Osborne concludeva queste meditazioni, convinto della propria generosità. Capitolo 30. Usanze vecchie e nuove. Mr. Preston si era ormai sistemato nella sua nuova casa di Hollingford. Mr. Sheepshanks era infatti passato alla condizione di dignitoso nullafacente a casa della figlia sposata, che viveva nel capoluogo della contea. Il suo successore si era buttato a capofitto in ogni sorta di miglioria. Tra le altre cose, incominciò le opere di drenaggio di un appezzamento di terreno periferico, desolato, mai bonificato da Lord Cammer, che si trovava nei pressi della proprietà di Squire Hamley. Si trattava proprio di quel fondo per cui lo squire aveva ricevuto l'anticipo da parte del governo, ma che ora era trascurato e risanato solo per metà, con cumuli di tegole coperte di muschio e linee di solchi arrovesciati a recare testimonianza di progetti abortiti. In quei giorni era raro che lo squire cavalcasse da quelle parti, ma il cottage appartenente a un uomo che era stato suo guardiacaccia ai tempi più prosperi in cui gli Hamley potevano permetterselo, si trovava vicino a quella giuncaia. Questo anziano servitore fittavolo era malato e aveva spedito un messaggio a Hamley Hall chiedendo di poter vedere lo squire. Non allo scopo di rivelargli un segreto o di dirgli qualcosa in particolare, bensì spinto da una lealtà feudale che faceva credere a quell'uomo morente che sarebbe stato un conforto stringere la mano e guardare negli occhi per l'ultima volta il signore padrone che aveva servito e per i cui antenati i suoi stessi progenitori avevano lavorato per così tante generazioni. E lo squire era pienamente cosciente e sensibile, come lo era il vecchio Silas, alle rivendicazioni del legame che esistevano fra loro. Sebbene detestasse il pensiero e ancor di più la vista di quell'appezzamento di terra sul margine del quale si trovava il cottage di Silas, lo squire si fece portare il cavallo e partì entro mezz'ora dall'aver ricevuto il messaggio. Avvicinandosi al luogo, gli parve di udire il suono degli attrezzi e il brusio di molte voci, come era solito sentirli un anno o due prima. Ascoltò con sorpresa. Sì, anziché l'immota solitudine che si aspettava, ecco il clangore del ferro, i pesanti e graduali tonfi del ricadere dei tumuli di terriccio, le grida e le urla degli operai. ma non sulla sua terra, che valeva molto di più la spesa e il lavoro rispetto a quel podere argilloso ricoperto di canneti su cui gli uomini erano effettivamente impiegati. Egli sapeva che quella era proprietà di Lord Kemnor e sapeva che Lord Kemnor e la sua famiglia si erano fatti un nome nel mondo, canaglie progressiste, sia per ricchezza che per status sociale, mentre gli Amelie erano decaduti. In ogni caso, a dispetto di fatti da lungo tenuti risaputi e a dispetto della ragione, la facile ira dello squire si scatenò nel vedere che il vicino stava facendo ciò che egli era stato incapace di portare a termine. Il suo vicino, un progressista, la cui famiglia abitava in quella contea dai tempi della regina Anna. Lo squire si spinse fino al punto di chiedersi se quelli, i lavoranti, intendeva, non si approfittassero forse delle sue tegole, che si trovavano così convenientemente a portata di mano. Aveva in testa tutti questi pensieri, questi rimpianti e queste domande, mentre cavalcava verso il cottage, al quale era diretto e poi lasciava il cavallo alle cure di un ragazzino, che fino a quel momento aveva impiegato la mattinata divertendosi a giocare a costruire casette, proprio usando le tegole abbandonate dallo squire, insieme alla sorella ancor più giovane. Però, essendo il nipote del vecchio Silas, il piccolo avrebbe potuto fare a pezzi tutta quella ruvida terracotta rossastra, un'intera pila, tegola per tegola, e lo squire avrebbe obiettato ben poco o per niente, ma non avrebbe lasciata neanche una a un operaio di Lord Kemnor. No, neanche una. Il vecchio Silas giaceva in una sorta di stanzino che si apriva sulla camera principale usata dalla famiglia come soggiorno. La piccola finestra che vi dava luce si affacciava direttamente sulla brughiera, come la chiamavano, e di giorno la tenda a scacchi era tirata in modo che lui potesse osservare i progressi dei lavori. Tutto intorno al vecchio era pulito anche se rustico, e con la morte, la livella così vicina, fu lui a iniziare a parlare e a porgere allo squire la mano callosa. Pensavo che sareste venuto, Squire. Vostro padre venne a incontrare il mio quando stava per morire. Andiamo, andiamo, amico mio, disse lo Squire, impressionabile come sempre. Non parlate di morte. Presto vi avremo fuori da qui. Non temete. Vi hanno mandato della zuppa da Hamley Hall, come ho ordinato, vero? Sì, ho avuto tutto ciò che potevo desiderare da mangiare e da bere. Il giovane Squire e Mastro Roger sono stati qui ieri. Sì, lo so. Ma oggi io sono molto più vicino al cielo. Eh sì. Squire, vorrei che vi occupaste dei nascondigli nel boschetto a ovest, quel ginestrone dove la vecchia volpe faceva la tana, quella volpe che vi ha fatto correre tanto. Me lo ricordate, Squire, anche se io non ero che un ragazzo. Rido ancora a pensare alle sue trappole. E a causa di un debole tentativo di risata, egli fu preso da un violento attacco di tosse che mise lo Squire in allarme, tanto da fargli pensare che l'uomo non avrebbe più ripreso fiato. La nuora entrò, richiamata da quel rumore, e informò lo squire che quegli attacchi erano parecchio frequenti e che pensava non sarebbe passato molto tempo prima che uno di questi se lo portasse via. Questa sua opinione fu espressa molto semplicemente in presenza dell'anziano ammalato, che ora giaceva ansante ed esausto sul cuscino. La povera gente riconosce l'inevitabilità e l'avvicinarsi della morte in modo molto più schietto di quanto sia usuale tra la gente altolocata. Lo squire era scioccato per quella durezza di cuore, come egli la reputò, ma il vecchio in persona aveva ricevuto molta gentilezza pratica da parte della nuora, e ciò che lei aveva appena affermato non era una novità per lui, non più del fatto che il sole sorgesse l'indomani. Era più ansioso di continuare quella sua storia. Quei manovali, li chiamo manovali perché alcuni di loro sono forestieri, anche se altri sono quelli che hanno lasciato i vostri lavori, squire. Quando gli fu ordinato che si fermassero lo scorso autunno, stanno tirando su ginestrone e sterpi per accendersi il fuoco che scalderà la loro mensa. Le loro case sono parecchio distanti e molti di loro mangiano qui. E se non li controllate, non rimarrà più neanche un nascondiglio. Ho pensato di dovervelo dire prima di morire. Il pastore è stato qui, ma non gliel'ho detto. Lui sta dalla parte del conte e non doveva sentire. È il conte che l'ha messo nella sua chiesa, secondo me, perché il pastore ha detto che è una bella cosa vedere che tanto lavoro viene dato ai poveri, e invece non ha detto nulla del genere quando erano in corso le vostre opere, squire. Questo lungo discorso era stato interrotto da numerosi accessi di tosse e ansiti per recuperare il fiato, e quando si fu liberato di ciò che aveva in mente, il vecchio girò il viso verso la parete e parve sul punto di addormentarsi, ma subito dopo si riscosse all'improvviso. So di averlo frustato per bene, l'ho fatto, ma dava la caccia alle uova di fagiano e non sapevo che fosse orfano. Che il Signore mi perdoni. Sta pensando a David Morton, lo storpio, che metteva le trappole per i roditori, bisbigliò la nuora. Beh, è morto tanto tempo fa, 20 anni, credo, replicò lo squire. Sì, ma quando il nonno sta per addormentarsi in questo modo, dopo aver parlato tanto, sembra che sogni vecchi tempi. Non si risveglierà, signore. È meglio che vi sediate se desiderate restare, proseguì, recandosi nel soggiorno e spolverando una sedia con il grembiule. Ha insistito molto che lo svegliassi se dormiva e voi o Mister Roger foste passati a trovarlo. Mister Roger ha detto che sarebbe tornato stamattina, ma è probabile che lui dorma per un'ora o più, se viene lasciato tranquillo. Vorrei avergli detto arrivederci. Sarei stato contento. Si addormenta così all'improvviso, spiegò la donna. Ma se salutarlo vi rendesse più contento, ve lo sveglio un attimo. No, no, esclamò lo squire, mentre la donna stava per tener fede all'intenzione. Tornerò, forse domani, e ditegli che mi è dispiaciuto davvero. E mi raccomando, fate sapere a Hamley Hall tutto ciò di cui avete bisogno. Mister Roger deve passare, dite. Più tardi mi saprà dire come sta. Mi sarebbe piaciuto dirgli arrivederci. Così, dopo aver dato 6 scellini al ragazzino che aveva badato al suo cavallo, lo squire montò in sella. Rimase un momento immobile a guardare il lavoro concitato che si svolgeva davanti ai suoi occhi e poi le sue opere di drenaggio incomplete. Fu una pillola amara. Da principio egli si era opposto all'idea di chiedere il prestito governativo, poi sua moglie lo aveva convinto a quel passo e una volta compiutolo era stato più orgoglioso che mai dell'unica concessione a uno spirito progressista che avesse mai fatto in vita sua. Aveva letto e studiato a fondo l'argomento, anche se con molta lentezza, nel periodo in cui la moglie lo aveva influenzato. Era abbastanza esperto di agricoltura, se non di altri temi, e per una volta, intraprendendo l'opera di bonifica, era servito da esempio ai proprietari terrieri suoi vicini. A quei tempi la gente era solita parlare del passatempo dello Squire Hamley, e ai mercati straordinari o alle cene della contea si temevano un poco di farlo partire con le sue lunghe ripetizioni di argomentazioni, tratte da diversi opuscoli in materia che aveva letto. Ora invece i latifondisti che lo circondavano erano impegnati nel drenaggio dei terreni. Il drenaggio dei terreni. Gli interessi dello squire nei confronti del governo crescevano anche se i suoi lavori si erano interrotti e le sue tegole perdevano di valore. Non era una riflessione consolante e l'uomo era quasi pronto a litigare con la propria ombra. Aveva bisogno di uno sfogo per il suo malumore e circondando all'improvviso la devastazione subita dai suoi nascondigli, della quale era stato informato neanche un quarto d'ora prima, si diresse a cavallo verso i manovali impiegati sui terreni di Lord Kemnor. Un attimo prima di raggiungerli si imbatté in Mr. Preston, anche lui in sella, che era venuto a dare un'occhiata ai lavori. Lo squire non lo conosceva personalmente, non dal modo di parlare dell'intendente e dalla deferenza che gli veniva evidentemente dimostrata. Mister Hamley capì che si trattava di una persona con delle responsabilità. Così si rivolse a lui dicendo: Vi chiedo scusa, immagino voi siate il supervisore di questi lavori. Mister Preston replicò: Certo, sono queste e tante altre cose anche al vostro servizio. Sono il successore di Mister Sheepshanks nell'amministrazione dei terreni di Milord. Mister Hamley di Hamley, suppongo. Lo squire chinò il capo irrigidito. Non gli piaceva che il suo nome fosse chiesto o presunto in quel modo. Un suo pari avrebbe potuto immaginare chi fosse o riconoscerlo, ma finché non si fosse annunciato, un suo inferiore non aveva alcun diritto di far altro se non apostrofarlo rispettosamente con la parola signore. Quello era il codice di un comportamento dello squire. Io sono Mr. Hamley di Hamley. Immagino che voi ignoriate i confini dei terreni di Lord Kemnor, perciò vi informo che la mia proprietà inizia dove si trova quello stagno laggiù, proprio dove vedete quel rialzamento del terreno. Ne sono perfettamente consapevole, Mr. Hamley, dichiarò Mr. Preston, un po' infastidito dall'ignoranza che gli si attribuiva. Ma posso chiedere perché vi si richiama la mia attenzione proprio ora? Lo squire stava iniziando a ribollire, ma tentò di tenere la rabbia sotto controllo. Tale sforzo meritava molto rispetto perché fu uno sforzo immenso. C'era qualcosa nel tono e nei modi di quell'intendente affascinante e ben vestito che irritava lo squire indescrivibilmente e non era certo diminuito dall'involontario paragone tra l'eccellente bestia che Mr. Preston montava e la propria cavalla tozza, vecchia e maltenuta. Mi è stato detto che i vostri uomini là non rispettano questi confini, ma sono soliti andare a prendersi il ginestrone dei miei nascondigli per accendersi il fuoco. È possibile, fece Mr. Preston, alzando le sopracciglia con un atteggiamento ancor più noncurante delle sue parole. Direi che non lo reputano chissà che danno. Comunque indagherò. Dubitate della mia parola, signore? Disse lo squire, innervosendo la giumenta al punto da farle iniziare a girare in tondo. Vi dico che mi è stato riferito neanche mezz'ora fa. Non intendo dubitare della vostra parola, Mr. Hamley. È l'ultima cosa che penserei di fare. Ma dovete scusarmi se dico che l'argomentazione che avete portato per due volte a sostegno dell'autenticità della vostra dichiarazione, che vi è stato riferito neanche mezz'ora fa, non è così forte da precludere la possibilità che ci sia un errore. Vorrei solo che diceste chiaramente che dubitate della mia parola, insistette lo squire, stringendo e sollevando leggermente il frustino. Non riesco a capire cosa intendete. Usate troppe parole. Vi prego di non perdere la calma, signore. Ho detto che indagherò. Voi non avete visto personalmente gli uomini raccogliere il ginestrone, altrimenti l'avreste specificato. Di sicuro io posso dubitare la correttezza delle informazioni in vostro possesso finché non avrò fatto delle indagini. In ogni caso, questa è la procedura che intendo seguire. E se questo vi offende, mi dispiace, ma lo farò lo stesso. Quando sarò convinto che è stato arrecato un danno alla vostra proprietà, mi preoccuperò di evitare che accada di nuovo in futuro. E naturalmente, in nome di Milord, vi pagherò il dovuto, probabilmente ammonta a una mezza corona. Aggiunse le ultime parole a voce più bassa, quasi tra sé, con un lieve sorriso di disprezzo stampato sul volto. Buona, cavallina, buona! Fece lo squire, senza rendersi conto di essere lui la causa di quei movimenti irrequieti con il suo continuo tirare le redini, e anche forse rivolgendo inconsapevolmente quell'invito a se stesso. Nessuno dei due, vide Roger Hamley. Si stava avvicinando proprio in quel momento a passo lungo e sostenuto. Aveva visto il padre dalla porta del cottage del vecchio Silas e poiché il poveretto stava ancora dormendo, si stava recando a parlare con lo squire e si trovava abbastanza vicino da sentire le seguenti parole. Io non so chi siete, ma ho conosciuti intendenti che erano gentiluomini e ne ho conosciuti altri che non lo erano. Voi appartenete alla seconda categoria, signore, stava asserendo lo squire. Ecco. Mi piacerebbe assaggiare su di voi il mio frustino per la vostra insolenza. Prego, Mr. Hamley, replicò Mr. Preston freddo. Frenatevi un poco e riflettete. Mi dispiace davvero molto vedere un uomo della vostra età così convulso. Tuttavia, si allontanò leggermente, ma più per il desiderio di impedire al furioso di mettere in opera la sua minaccia, perché non sopportava l'idea delle maldicenze e del clamore che ne sarebbero conseguiti, che non per timore personale. Proprio in quel momento Roger Hamley li raggiunse. Ansava un poco e i suoi occhi erano molto cupi e severi, ma parlò piuttosto tranquillo. Mr. Preston, faccio davvero fatica a capire le vostre ultime parole. Ma ricordate, mio padre è un gentiluomo per età e per posizione e non è abituato a ricevere consigli in merito al proprio comportamento o al proprio umore da uomini giovani come voi. Volevo che i suoi uomini stessero alla larga dalla mia terra. Comunicò lo squire al figlio, calmandosi un po' per il desiderio di mantenere alta l'opinione che Roger aveva di lui. Ma anche se le sue parole erano un po' più quiete, erano presenti tutti gli altri segni della sua emozione: il pallore, le mani tremanti, la fiera nube che gli oscurava lo sguardo. Lui ha rifiutato e ha messo in dubbio la mia parola. Mr. Preston si rivolse a Roger come per fare appello, dal Filippo ubriaco al Filippo sobrio, e si espresse con un tono di freddo chiarimento, che sebbene non insolente nelle scelte delle parole, era estremamente irritante. Vostro padre mi ha frainteso, forse non c'è da meravigliarsene, tentando di far capire con uno sguardo complice al figlio la propria opinione che lo squire non fosse nelle condizioni di sentire ragioni. Non ho mai rifiutato di fare ciò che è giusto. Ho solo richiesto ulteriori prove in merito a un torto subito. Vostro padre se ne è offeso. E a quel punto scrollò le spalle e alzò le sopracciglia come un tempo aveva imparato a fare in Francia. In ogni caso, signore, fatico a conciliare i modi e le parole con cui vi siete rivolte a mio padre e che ho sentito avvicinandomi con la deferenza che siete tenuta a dimostrare nei confronti della sua età e della sua posizione, e in merito allo sconfinamento. Stanno portando via tutto il ginestrone, Roger. Presto non avremo più modo di preparare i nostri nascondigli per la selvaggina, interloquì lo squire. Roger annuì al padre, ma riprese il discorso da dove era stato interrotto. Indagherò io stesso in un altro momento e se scopro che è stato commesso un danno o un accesso abusivo, naturalmente mi aspetterò che voi vi preoccupiate di impedirli. Andiamo via, padre. Sto andando a trovare il vecchio Silas, forse non sapete che è molto malato. Così riuscì a tirar via suo padre per scongiurare ulteriori discussioni. Non ebbe del tutto successo. Mister Preston era furioso a causa delle maniere calme e austere di Roger e tirò loro quella frecciata, come un soliloquio ad alta voce. La posizione, come no? Cosa dobbiamo pensare delle posizioni di un uomo che inizia lavori come questi senza calcolarne le spese? Li interrompe e deve licenziare i lavoranti proprio al principio dell'inverno, lasciando... Erano troppo lontani per sentire il resto. Lo squire era sul punto di tornare indietro, ma Roger afferrò le redini della vecchia giumenta e la condusse oltre una porzione di terra acquitrinosa, come per guidarla su un suolo più sicuro, ma in realtà perché determinato a impedirne una ripresa del litigio. Fu un bene che la bestia lo conoscesse e che fosse abbastanza anziana da preferire la tranquillità al moto. Infatti, Mr. Hamley tirò forte le redini e alla fine sbottò con un'imprecazione. Dannazione, Roger, non sono un bambino, non mi farò trattare così. Lasciami andare, dico. Roger lasciò la presa. Non era su un terreno solido e non voleva che i presenti pensassero che stava esercitando una costrizione su suo padre. Questa muta obbedienza ai suoi impazienti ordini ebbe l'effetto di calmare lo squire più di qualsiasi altra cosa. So di averli licenziati, cosa potevo fare? Non avevo più denaro per pagargli la settimana. Per me è una perdita, lo sai bene. Lui non lo sa, nessuno lo sa, ma penso che tua madre lo sapesse quanto io abbia sofferto per averli licenziati all'inizio dell'inverno. Per molte notti non ho dormito al pensiero e ho dato loro quello che avevo. Certo che l'ho fatto. Non avevo soldi per pagarli, ma avevo tre vacche sterili ingrassate e agli uomini ho dato ogni pezzetto di carne e gli ho permesso di andare nei boschi a raccogliere quel che era caduto e ho chiuso un occhio quando hanno spezzato i rami vecchi. E adesso sentirmelo rinfacciare da quel mascalzone, quel servo? Ma andrò avanti con i lavori andrò avanti anche solo per fargli dispetto. Gli mostrerò chi sono. La mia posizione, certo, la posizione di Hamley di Hamley è più alta di quella del suo padrone. Andrò avanti con i lavori, vedrai se non è così. Pagherò dalle 100 alle 200 di interessi al governo. Ne tirerò su anche di più se andrò dagli ebrei. Osborne mi ha insegnato come si fa e Osborne pagherà per questo. Pagherà! Non mi rassegno agli insulti. Non avresti dovuto fermarmi, Roger. Volesse il cielo che avessi frustato quel tipo. Si stava di nuovo lasciando andare a una furia inutile, dolorosa a vedersi per suo figlio. Ma proprio allora, il nipotino del vecchio Silas, che aveva badato al cavallo nel corso della visita dello squire all'ammalato, venne al loro incontro di corsa senza fiato. Per favore, signore squire, la mamma mi manda da voi. Il nonno si è svegliato all'improvviso e mamma dice che sta per morire. Se potete venire, per piacere, dice che lo prenderebbero davvero come un grande onore. Così tornarono al cottage. Lo squire non disse una sola parola, ma si sentì all'improvviso come sollevato da un turbine e ricollocato in un luogo muto e terribile.